Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. Raccontiamo attraverso fatti di cronaca che avvengono in Italia ma anche nel resto del mondo il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 751, parleremo soprattutto della fatica che fa la società umana a rendersi conto di quanto deve cambiare, sia a livello politico, sia a livello individuale, per salvare se stessa e il resto dei viventi da un disastro ecologico sempre più annunciato dalla scienza, ma anche dal senso comune. Il 17 giugno scorso è stata approvata in Europa la Nature Restoration Law. Ne parliamo con Danilo Selvaggi, direttore generale dell'associazione LIPU. Vi proponiamo poi una riflessione sul suolo. Suolo inteso come casa comune da preservare con la massima cura e urgenza. Incontreremo la comunità collaborativa e altruista del ratto talpa, un animale invisibile ma sorprendente che merita di essere conosciuto. Non mancherà la consueta ricetta vegana cruelty free che riprenderà uno dei temi di questa puntata. La rubrica di cucina è curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che stavolta si occupa anche del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito. Lunedì 17 giugno la Nature Restoration Law è andata al voto dei ministri europei dell'ambiente di tutti i paesi aderenti, i 27, e l'Europa è riuscita ad approvare quello che molte associazioni ambientaliste definiscono il più importante provvedimento a favore della natura mai proposto. L'Italia ha votato contro, assieme a Ungheria e Polonia. È una grande amarezza questo per noi. Hanno votato contro anche Olanda, Svezia e Finlandia. Il Belgio si è astenuto, tutti gli altri paesi hanno votato a favore. La Nature Restoration Law ha come obiettivo il ripristino degli habitat naturali ed è il programma naturalistico più ambizioso mai presentato. Uno sguardo rivolto al presente e al futuro in modo da riportare realmente la natura nelle nostre vite. Non ci faremo deprimere dal voto del governo italiano. Preferiamo pensare che quello che è accaduto oggi non ha precedenti e che si tratta di un regolamento, non di una direttiva, che pertanto sarà direttamente efficace, per quanto serva naturalmente anche un piano attuativo, vista anche la portata di questo programma. L'Italia deve quindi rimboccarsi le maniche a partire da oggi, a meno che non intenda incorrere in gravose sanzioni. A presentarci la Nature Restoration Law, a dirci cos'è, cosa prevede, cosa accadrà adesso, è Danilo Selvaggi, direttore generale dell'associazione LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Sentiamo. Il 17 giugno 2024, cioè il giorno dell'approvazione della legge europea sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law, passerà alla storia come una delle date più importanti, dei giorni più importanti nella storia delle politiche di conservazione della natura. E questo perché la legge approvata, la Restoration Law, è davvero un provvedimento straordinario di portata e di ambizione senza precedenti. Che cos'è la Nature Restoration Law? È la legge o regolamento europeo che prevede il ripristino degli habitat naturali minacciati del nostro continente e di conseguenza il ripristino, la rigenerazione delle specie viventi che in questi habitat abitano, e in particolare prevede il ripristino di almeno il 30% degli habitat naturali entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040 e il 90%, diciamo tutti gli habitat, entro il 2050, e si applica appunto a tutti gli habitat naturali, alle zone umide, ai fiumi, alle coste, alle foreste, agli ambienti agricoli, alle città, agli ambienti urbani che rientrano in questo grande disegno. Il beneficio della nuova legge europea è veramente molto grande e molto vario. C'è un ovvio beneficio per la biodiversità, per arrestare il declino della biodiversità e invertire la rotta. C'è un beneficio per le risorse naturali e i servizi ecosistemici cosiddetti, che dipendono direttamente dalla buona salute degli habitat. C'è un beneficio per la salute del territorio, ad esempio in termini idrogeologici, così come c'è un contributo naturale importante alla questione climatica in termini di mitigamento e di adattamento alla crisi climatica. E c'è un contributo alle società umane con un'agricoltura migliore, con città più naturali, più accoglienti e così via. Nonostante questo, il percorso della legge è stato molto difficile, ostacolato dall'opposizione di alcuni stati, ostacolato dal voltafaccia del Partito Popolare Europeo, che ha dapprima sostenuto la legge e il Green Deal in generale, poi ha assunto una posizione contraria, durissima e non priva anche di esasperazioni e fake news, e per fortuna il resto d'Europa ha mantenuto la propria posizione e il risultato finale è stato quello giusto. Che cosa accade adesso? La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed entra in vigore, e da quel momento tutti gli Stati membri si mettono all'opera per realizzare i piani attuativi nazionali della legge, attraverso i quali appunto la legge può poi concretizzarsi. Dovrà farlo anche l'Italia, contraria fino ad oggi alla legge, ma dovrà farlo, visto che il regolamento è vincolante, tutti lo devono applicare, ed è bene che lo faccia, perché si tratta davvero di uno strumento che può cambiare il volto del nostro territorio, delle nostre società e del mondo ricco, bello e purtroppo sofferente che sta intorno a noi. La LIPU ha lavorato moltissimo per l'approvazione della legge, coinvolgendo 7 milioni di persone, informandole, coinvolgendo centinaia di organizzazioni, e lavorerà per la sua piena attuazione nel nostro paese. Paolo Pileri insegna pianificazione del territorio al Politecnico di Milano ed è autore di un libro profetico e prezioso, L'intelligenza del suolo, edito da Altre Economia nel 2022. Pileri è il massimo esperto di suolo in Italia, un argomento tanto antico quanto trascurato, arrivato nelle nostre cronache dopo le alluvioni disastrose che hanno colpito specialmente Emilia-Romagna e Toscana. Pileri però non è solo un professore, è anche un attivista e spesso si confronta con i politici, forte delle sue conoscenze, ponendo domande semplici, efficaci, dirette ma ben documentate, creando quindi anche qualche disagio, qualche imbarazzo, perché la conoscenza delle leggi e delle loro deroghe non lascia spazio a discorsi vaghi e a propositi generici. Pileri afferma, senza tanti giri di parole, che gli eventi estremi, le piogge torrenziali, sono tanto più devastanti quanto più il suolo è stato sfruttato, coperto, impermeabilizzato e, come sappiamo, ci sono regioni in Italia campionesse nel consumo di suolo. Lo stesso presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo anni e anni di asfalto e cemento, ha recentemente e tardivamente ammesso che si è costruito troppo e che non sarà più così. Abbiamo chiesto a Paolo Pileri di spiegare a chi ascolta questa trasmissione perché il suolo può essere considerato la casa di tutti i viventi. 9 miliardi. Potremmo iniziare così la nostra storia animale sul suolo, visto che 9 miliardi sono le unità di vita che noi troviamo nei primi 30 centimetri sotto i nostri piedi, praticamente l'ecosistema più abitato, più densamente popolato che troviamo sulla Terra. Questi 9 miliardi sono costituiti da batteri, da ife fungine e da microrganismi, nematodi, tardigradi. Quindi specie animali e batteriologiche a noi ignote, invisibili, ma fondamentali per tenere in vita la natura fondamentalmente. Gli alberi senza questi batteri, i rizobatteri, non sarebbero in grado di concludere il loro ciclo di fotosintesi clorofilliana, senza i funghi non sarebbero in grado di assumere fosforo, e quindi sotto i nostri piedi c'è un mondo straordinario. Quindi il suolo non è solo popolato da quelli che sono più comunemente noti come le talpe, i lombrichi, le chiocciole, i lumaconi, animali che noi vediamo e purtroppo già rispettiamo poco, se non addirittura non li rispettiamo, ma loro sono solamente la punta di un iceberg più complesso e più variegato che popola proprio l'ecosistema più fragile che abbiamo. Fragile perché, non conoscendo un po' il suolo, non avendo una legge nazionale e nemmeno una direttiva europea di tutela del suolo, purtroppo questo ecosistema prezioso e raro è sottoposto a molte pressioni. Il mondo dell'agricoltura, usando pesticidi e agrofarmaci in modo sconsiderato, continua a inquinare questi suoli, e questo va a detrimento proprio della biomassa, quindi proprio del mondo animale che c'è dentro il suolo, che riducendosi si riducono con esso le funzioni vitali di questo ecosistema e di conseguenza anche il suo contributo verso il mondo vegetale. Dopodiché c'è l'urbanizzazione ha una capacità di annientamento del suolo che è straordinariamente forte e soprattutto non reversibile. In Italia è particolarmente pesante, siamo nell'ultimo anno dati ISPRA, ovvero nel 2022, a 7.075 ettari, un ettaro ricordo che sono 10.000 metri quadri, quindi 7.075 ettari completamente cementificati, quindi fondamentalmente dove si è completamente distrutto l'ecosistema suolo. Poi ci sono tutti gli inquinamenti, poi ci sono le asportazioni di suolo, poi ci sono anche tutte le questioni più naturali come le frane, le colate fangose e così via, che tendono a ridurre la quantità di suolo sano che noi abbiamo a disposizione. L'ultima cosa è positiva ed è una direttiva recentissimamente approvata proprio 10 giorni fa dalla Commissione europea, che darà inizio a quello che si chiama la Nature Restoration Law, ovvero una serie di azioni e interventi per ripristinare la natura laddove essa è stata aggredita. Il suolo è una di queste componenti aggredite. È importante però definirlo tale. Purtroppo, ritornando a casa nostra, nel nostro sistema giuridico, il suolo non è definito un ecosistema, ma è definito fondamentalmente lo strato di terra che ricopre la crosta terrestre. Quindi, pur essendo definito tecnicamente in modo non scorretto, ecologicamente non viene definito in modo altrettanto corretto e di conseguenza rischiano di non attivarsi quelle attenzioni, quei dispositivi di tutela che sono riservati agli ecosistemi. Se non diciamo che sono un ecosistema, è difficile poi pensare di tutelarlo come ecosistema. Quindi c'è molta strada da fare. La prima però è sempre quella di riconoscere al suolo lo status di ecosistema, ovvero di un mondo che è la casa della più grande intensità e densità di vita che abbiamo sul pianeta, quindi animali, batteri, funghi e altri microrganismi ignoti e fondamentali. E adesso andiamo a incontrare uno di noi, il ratto talpa. Abbiamo trovato delle informazioni interessantissime su questo animale così sconosciuto su Kodami, che è una piattaforma che promuove la conoscenza del regno animale. Il prodigioso ratto talpa è un roditore africano senza pelo dal comportamento eusociale. Vive sottoterra, dove scava gallerie che possono raggiungere anche i 3 chilometri. Si tratta di un roditore molto longevo e la regina della comunità può superare anche i 30 anni. Il suo nome scientifico è Heterocephalus glaber, quindi eterocefalo glabro o ratto talpa nudo, un piccolo mammifero che vive sottoterra e per questo motivo i suoi occhi sono ridotti a piccole fessure. La sua vista è scarsissima, c'è anche il detto cieco come una talpa, le orecchie sono atrofizzate perché là sotto non c'è rumore e presenta due grandi incisivi, due dentoni che gli permettono di scavare con facilità. Non è bellissimo, ma è veramente parte di una comunità straordinaria. Vivendo sottoterra nella totale oscurità, l'eterocefalo glabro manca di un ritmo circadiano, quindi questo mammifero si attiva per brevi intervalli di tempo che poi vengono interrotti da lunghe pause di inattività, secondo sequenze che variano in modo molto irregolare da un giorno a un altro. Non si può dire che sia un metodico. Per compensare la scarsa abilità visiva, il ratto talpa, detto anche talpa senza pelo, ha una grande agilità che gli permette di correre rapidamente anche all'indietro. Le zampe sono corte ma dotate di ottimi artigli per scavare le tane e le gallerie che possono raggiungere i 3 km di lunghezza. Il corpo raggiunge i 12-15 cm e il peso va dai 30, pensate, agli 80 grammi in base al ruolo che ricopre nella comunità. Questo perché si tratta di un animale eusociale che quindi vive in gruppi all'interno dei quali ognuno ha il proprio ruolo e in base a questo si sviluppa fisicamente in modo specifico. Inoltre è dotato di una sorprendente longevità, può vivere, pensate, oltre 30 anni e questo fa dell'eterocefalo glabro il roditore con l'aspettativa di vita più lunga. Negli anni 80 sono state studiate le strutture sociali di questi animali, che sono diverse da quelle di tutti gli altri roditori. In queste comunità la cooperazione, l'altruismo e la divisione dei compiti tra i membri della colonia si esprimono in maniera particolarmente evidente. La collaborazione tra gli individui, ad esempio, permette di costruire tane sotterranee di dimensioni impressionanti. Ogni anno, infatti, lavorando insieme, i membri della colonia spostano in superficie tonnellate di terra mentre scavano alla ricerca di tuberi. Esempi noti di altri animali eusociali sono alcuni insetti come le formiche, le termiti, le api. uno dei primi studi sul comportamento sociale di questa specie, pubblicato nel 1997 dalla rivista scientifica The Royal Society, spiega approfonditamente la sua struttura, dimostrando che l'accoppiamento in questa specie è riservato solo alla regina e fino a un massimo di 3 esemplari maschi, che variano di anno in anno, mentre agli altri maschi viene impedita la riproduzione, quantomeno fino alla morte della regina. La regina può avere fino a 20 piccoli, i quali vengono accuditi da femmine e maschi operai fino al completo svezzamento. Le colonie possono raggiungere anche i 200 individui. I conflitti sono rari, a meno che non venga a mancare la regina. In questo caso, però, si osserva un aumento dei comportamenti aggressivi, soprattutto tra gli individui di alto rango, come i maschi riproduttori. Questi animali, dal complesso comportamento sociale, sono stati studiati anche dal punto di vista della rivalità tra colonie. E una ricerca del 2020 ha dimostrato che le colonie di ratti talpa possono scegliere di invadere il territorio di altre colonie con l'obiettivo di aumentare le proprie risorse. L'invasione implica anche un comportamento condiviso con i formicai, il rapimento di piccoli non svezzati per arruolarli tra la propria forza lavoro. Ogni colonia, inoltre, è dotata di un dialetto distintivo che viene tramandato culturalmente di generazione in generazione. Nelle zone desertiche di Somalia, Djibouti, Kenya ed Etiopia, a un'altitudine che va dai 400 ai 1500 metri, il ratto talpa, vivendo sottoterra, necessita di ambienti terrosi per potersi muovere e per cercare alimenti adatti alla propria dieta, come radici e tuberi. Se questi alimenti scarseggiano, può anche mangiare piccoli animali, come lumache o lombrichi. Fortunatamente questo curioso roditore è considerato a basso rischio di estinzione. Un altro paio di particolarità: nonostante abbiano polmoni molto piccoli, gli eterocefali glabri sono in grado di resistere 18 minuti senza ossigeno, in anossia. Durante l'anossia, secondo uno studio pubblicato nel 2017, questo animale metterebbe in atto una respirazione anaerobica attraverso un processo noto come glicolisi, che permette di liberare nel sangue grandi quantità di fruttosio, uno zucchero che il ratto talpa usa al posto del glucosio per sopravvivere. Questo meccanismo potrebbe essere anche sfruttato in futuro per ridurre al minimo i danni da mancanza di ossigeno che caratterizzano alcune malattie umane. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporre oggi una ricetta speciale per celebrare l'altruismo del ratto talpa. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Premetto che quando si cucina bene ogni ricetta è altruista. Mentre la prepari devi pensare e dedicare il tuo tempo agli altri. In caso contrario, non si sta cucinando, ma riscaldando qualcosa per alimentarsi. E parlando di cucina e generosità, a me sorge spontaneo dedicare una ricetta alla figura della nonna. In primis la mia mamma, che è l'emblema dell'altruismo. E lo faccio con un classico della pasticceria italiana, la torta della nonna. Gli ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro sono: per la pasta frolla, 300 g di farina tipo 0, 150 g di margarina autoprodotta, 20 g di farina di riso, 30 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 70 ml di acqua oppure latte vegetale o liquore dolce, la scorza grattugiata di mezzo limone o arancio, un pizzico di curcuma in polvere, vaniglia o cannella e un pizzico di sale. Per la crema, 500 ml di latte vegetale, 50 g di amido di mais, 60 g di zucchero, una scorza di limone o arancio, un pizzico di curcuma in polvere e della vaniglia. Infine, pinoli e zucchero a velo per completare la torta. Per prima cosa preparate la frolla. In un recipiente unite la margarina, l'acqua, lo zucchero, la vaniglia, la curcuma, la scorza di limone e il sale. Insomma, tutti gli ingredienti ad eccezione della farina e della farina di riso. Impastate il tutto con molta energia e quando il tutto sarà ben amalgamato aggiungete la farina, la fecola e la farina di riso. Lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante non lavorare troppo una volta aggiunta la farina affinché non si rompa il glutine. Questo darà maggior friabilità e croccantezza alla frolla, in caso contrario tenderà a diventare elastica. Formate un mattoncino, spolverate con poca farina, copritelo con la pellicola e lasciate riposare in frigo almeno un'ora. Nel frattempo preparate la crema, stemperate l'amido di mais con il latte vegetale, aggiungete lo zucchero, la curcuma, la scorza di limone e la vaniglia. Mettete sul fuoco e mescolando con una frusta cuocete fino a raggiungere la densità di una crema liscia. Versate in un contenitore e lasciate raffreddare coprendo la superficie. Infine, recuperate la frolla, stendetela a 4 mm di spessore e foderate uno stampo per crostate. Con una forchetta bucherellate il fondo e farcite con la crema. Dopo aver ben livellato la crema, coprite il tutto con un altro strato di frolla leggermente più sottile. Bucherellate la superficie creando un decoro geometrico se lo gradite. Spennellate con un po' di latte vegetale e coprite con i pinoli. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti, completando la cottura con 10 minuti a 170 gradi in modalità ventilata. Lasciate raffreddare e servite cospargendo con zucchero a velo. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 752 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.